Eccoci, allora mi rivolgo alla mia chierichetta che sola ascolta e partecipa a questa messa, ma davanti alla mente ho anche tutti voi, cari amici, cari fratelli e sorelle, che siete sparsi un po' in giro e sento che la parola di Dio non è bloccata da questo coronavirus che ci impone di dire le messe a porte chiuse. Ma la parola di Dio corre, corre, corre. E allora vorrei farvi dono un po' della mia riflessione su questo salmo, il salmo responsoriale 18 o 19, con una premessa. C'è il rischio, questo capita al predicatore, ma questo capita anche alla catechista, capita anche a ognuno che vuole insegnare la parola di Dio. C'è il rischio che uno la legge e subito cerca di interpretarla per gli altri. E no, io devo leggerla per me questa parola, se no io non mi converto. C'è il rischio che vorrei convertire voi e poi non mi devo nutrire io vi devo dare il mio latte, questo. Voi catechiste dovete anzitutto mangiarla voi la parola. Ecco, io posso dire che ho la fortuna di avere del tempo e ci passo sopra diverse mezz'ore a preparare questo pensiero. Non è che lo butto lì. E allora, dopo che l'ho mangiato per me, sento anche che posso condividerlo per voi. Dopo che l'ho mutato in preghiera, lo muto anche in riflessione per voi. E allora comincio a leggere questo salmo e il ritornello mi dice: la tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi. Come leggo questa parola, la tua legge, e capisco bene tutta l'importanza che c'è per il pio ebreo, la legge, era il nome del Pentateuco, era il nome dei primi cinque libri della Bibbia, però a me non piace troppo, a me non piace troppo, perché a me viene in mente subito Paolo che mi dice la lettera della legge uccide, è lo spirito che dà vita. E allora però il concetto devo tenerlo, è un insegnamento, allora io lo traduco così per me: la tua volontà, Signore. Quindi la tua legge è la tua volontà. Tanto più che in questi primi versetti leggo: la legge del Signore è perfetta, il comando del Signore è limpio, il timore del Signore è puro, i giudizi del Signore sono fedeli, cioè sono come tutti sinonimi: la legge del Signore, il comando del Signore, il timore del Signore, i giudizi del Signore, che appunto esprimono il pensiero di Dio, la volontà di Dio. E allora leggo: la tua legge, la tua volontà, Signore, è luce ai nostri occhi. Capisco, la tua volontà, Signore, è luce ai nostri occhi. E allora mi devo sintonizzare sempre su ciò che tu vuoi da me, non su ciò che io desidero, o peggio, su ciò che io voglio, o peggio, su ciò che io pretendo. Mi devo mettere in ascolto, devo discernere, sia fatta la tua volontà come viene fatta in cielo, così che sia fatta anche nel mio cuore. E allora la tua volontà, Signore, sarà luce ai miei occhi. E in effetti, se faccio una cosa che capisco che è tua volontà, la faccio, come dice il Salmo, rinfranca l'anima, il timore del Signore è puro, i giudizi del Signore sono fedeli, sono giusti, più preziosi di molto oro fino. E mi viene in mente quella frase che viene usata alcune volte come esclamazione, no? Magari tuo figlio, una persona ti chiede qualcosa e tu non sei pronto a rispondere perché non sai cosa... Cioè, vedremo, vedremo. Io riflettevo e dicevo, cosa vuol dire vedremo? E di per sé vuol dire che adesso non vedo. E mi aspetto di vedere in futuro, vedremo. Quindi non è semplicemente una esclamazione, ma è un dire, Signore, adesso non capisco, adesso non vedo, dammi luce. La tua legge è luce ai miei occhi. Poi vado avanti e vedo le inavvertenze. Chi le discerne, assolvimi dai peccati nascosti, anche dall'orgoglio salva il tuo servo, perché su di me non abbia potere. E mi colpisce, no? Perché da una parte, se faccio la volontà di Dio, ho la luce, e dall'altra non mi accorgo nemmeno dei miei sbagli, le inavvertenze. Chi le discerne? Assolvimi dai peccati nascosti. E riflettevo quali sono i miei peccati nascosti, e sono quelli che non vedo. Io credo soprattutto la mia vanità, il mio orgoglio, Signore Gesù. Sono pieno di me e non mi accorgo. E se qualcuno mi critica, caspita, vado in crisi, mi offendo, perché? Appunto, perché sono pieno di me. Allora purificami, oh Signore, purificami, perché dall'orgoglio salva il tuo servo, dall'orgoglio e anche da quella parola che ho riscoperto negli scritti di Sant'Ambrogio, il puntiglio. Per ora mi fermo qui perché mi viene in mente tutta una catechesi che mi riprometto di fare, chiedo allo Spirito Santo se mi aiuterà, se mi illuminerà, perché dovrò pur dire che le donne sono, pardon, il mondo femminile, non le donne, il genio femminile è la vittima prediletta della vanità e dell'orgoglio. Ma questo l'ho riscoperto, come mi riprometto di dirlo. Allora, Signore, ti affido e prego per tutte le donne che sono la meraviglia dell'umanità. Sento davanti a te di ringraziarti di aver creato la donna, perché la donna, oltre a essere bella, la donna è veramente la sede dell'amore. Nessuno sa amare come una donna. Allora ti prego per loro, Signore Gesù, e nello stesso tempo ti dico, difendile da queste inavvertenze, da questi peccati di cui non si accorgono e che io purtroppo, come spiegherò, incontro quotidianamente quando arriva gente che ha subito fatture, malefici, malocchi, maledizione e tutte queste porcate, quasi al 100% da parte di donne. O Signore, benedici le donne.